Ad alta voce. Marco Foschi legge La Gloria di Giuseppe Berto. A Cafarnao le cose andarono subito meglio. Non c'era diffidenza preconcetta. Stavano con animo favorevole ad ascoltare quel che diceva. Tutta la settimana andavamo per la campagna o lungo il lago. Ed egli si fermava con pescatori, braccianti, vignaioli, pastori e conversava con loro, sempre trovando le parole più adatte per consolarli ed esortarli affinché collaborassero, amandosi e tenendosi uniti all'avvento del regno. Il sabato, poi, insegnava nella sinagoga e la gente rimaneva molto colpita dal suo insegnamento perché parlava con autorità. Proprio lì, nella sinagoga di Cafarnao, un sabato s'arrischiò a compiere un prodigio piuttosto clamoroso e gli andò anche bene, tenendo conto che Cafarnao non era poi tanto lontano da Nazareth da pensare che la gente ignorasse che l'uomo chiamato Gesù era figlio di un falegname chiamato Giuseppe ed una donna, come ce n'erano tante anche a Cafarnao, sicché anche a voler trascurare la cattiva fama di Nazareth non poteva non apparire un po' eccessivo che egli, oltre a predicare con autorità e a suggerire, non appena gliene offrivano la comodità, l'idea che fosse proprio lui l'unto del Signore promesso, ma in verità non era il solo a proclamarsi l'unto nella Palestina di quei tempi, si mettesse anche a compiere prodigi e non nascostamente, bensì là, in presenza di tutti. In effetti, quel sabato la sinagoga era molto affollata e grande era l'attesa di lui. Sapeva far desiderare la propria apparizione e nessuno mai conosceva il luogo dove dormivamo. Un pagliaio, una stalla abbandonata, una barca tirata in secco. E quando infine apparve, tutti si fecero tesi e riverenti. Egli era avviato al gradino dal quale solitamente insegnava, quando all'improvviso un uomo, con lo spirito di un demonio impuro, si mise a gridare a squarciagola, ed era, si intende, Satana che gridava per bocca sua: «Vattene, Gesù di Nazareth! Non abbiamo niente da spartire con te! Sei venuto a distruggerci! Tu lo puoi! Perché sei il santo di Dio!» Era una meravigliosa e veritiera attestazione, ma veniva da uno spirito impuro. Egli non poteva accettarla. Perciò, preso da maestosa collera e rivolto dritto al demonio che era dentro l'uomo, gli ordinò: «Taci ed esci da lui!» E il demonio, furibondo e impotente, ce la fece sì a scaraventare per terra il disgraziato, ma da lui posseduto, ma poi fu costretto ad abbandonarlo senza fargli altro male. Tutti nella sinagoga erano stupiti e spaventati e si dicevano l'un l'altro: «Che cosa sta succedendo? Dà ordini con potenza agli spiriti impuri e questi spiriti umiliati ubbidiscono?» Cose che poi venivano raccontate in giro e la sua fama si spargeva dappertutto nella regione. Di giorno in giorno diventavamo più forti, aumentava il numero di coloro che credevano in lui. Già aveva chiamato a sé Simone, poi detto Pietro, e suo fratello Andrea, e aveva chiamato Giacomo e suo fratello Giovanni, giovane e bello tra i figli degli uomini, infido e ambizioso. Sempre più numerosi erano quelli che accorrevano, avidi della sua parola, ansiosi di assistere a qualche fatto straordinario. E giunto in casa di Simone Pietro, uno di quei giorni, compì uno dei suoi più prevedibili prodigi quando arrivò lì per la cena. Trovò la suocera di Simone in preda a febbre altissima e, siccome lo pregavano di far qualcosa, egli, protendendosi su di lei, minacciò la febbre e la febbre la lasciò. E lei, alzatasi immediatamente, si mise a scriverci. Il fatto subito conosciuto fuori casa e può darsi anche che qualcuno si desse un po' da fare per farlo conoscere più presto, suscitò in paese chiacchiere e stupore. Anche alla febbre comandava e la febbre gli ubbidiva. Così era. Gli increduli venivano zittiti. Il sole frattanto tramontava. La gente a quell'ora era solita ritirarsi in casa per dormire, ma nel paese correvano troppi fermenti, curiosità, speranze, e quelli che avevano dei malati, da qualsiasi genere di malattia fossero affetti, correvano alla casa di Simone per presentarli a lui, e lui, stendendo le mani su ciascuno di loro, li guariva. Si trattava per lo più di indemoniati, il cui spirito maligno, percependo la vicinanza di Gesù, si metteva a gridare: «Vattene, tu ci vinci, sei l'unto, il figlio stesso di Dio!» Il rabbi li minacciava. Non li lasciava gridare così, ma frattanto avevano gridato quanto interessava, ed essi, gli spiriti maligni, erano costretti ad andarsene. Ci fu confluire di gente fino a tarda notte, e alla fine tutti eravamo così stanchi che dormimmo lì. Ci svegliò ancor prima che facesse giorno e ci avviammo verso i luoghi più pacifici. Gli abitanti del paese, quando s'accorsero che eravamo partiti, ci corsero dietro. Volevano impossessarsi di lui affinché rimanesse con loro a insegnare e guarire. Quando ci raggiunsero, lo contornarono, si aggrappavano alla sua veste, volevano trattenerlo, ma il rabbi, che in quella regione aveva già seminato abbastanza, disse: «Bisogna che io vada ad annunciare il regno di Dio anche a altre contrade, perché per questo sono stato mandato». Il successo l'aveva fatto sicuro e si avviò per predicare anche nelle sinagoghe della Giudea. Lo seguimmo in pochi: Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni e io, mai chiaramente invitato, sempre tenuto in disparte. Tuttavia, ogni mattina, al momento di ripartire, quando un po' di proposito io mi mostravo incerto, quasi esitante se proseguire con loro o no, c'era un attimo in cui il suo sguardo mi chiedeva di seguirlo, e lo seguivo in obbedienza, rimpiangendo nel mio cuore il tempo in cui ero io solo a seguirlo, sia pure un po' a distanza. Ora c'era Pietro, rozzo ma destinato al comando, e c'era Giovanni, destinato alla predilezione. Lo odiavo sempre più, Giovanni, come lui odiava me. Tuttavia, entrambi eravamo consapevoli che quando si odia, non si odia uno qualsiasi, e che l'odio è un torbido miscuglio del quale fa parte anche l'amore. Era lui, il rabbi, che in qualche modo ci teneva insieme. Così andavamo per le strade, le piste e i sentieri della Galilea, dalla Samaria e Giudea, il rabbi coi suoi intimi e io, alcuni passi indietro, forse non intimo, ma oscuramente necessario. Egli predicava, insegnava, compiva facili o nebulosi prodigi, e il numero di coloro che si mettevano a seguirlo diventava rapidamente folto. Allora li lasciava, avvertendoli di attendere l'ora imminente, e passava ad altra contrada, sempre accompagnato dai più fedeli. Adesso con noi c'erano anche Matteo, Bartolomeo, Simone lo Zelota e altri, e ognuno si prodigava per potenziare la sua missione. Egli con smisurata autorità prometteva, ammoniva, minacciava e si manifestava compiendo prodigi, conquistandosi seguaci in gran numero. Era sempre più il probabile redentore, liberatore di Israele. Vi sono forme d'amore sconfinato quando si ama un'ideologia, e tuttavia prudenti quando l'ideologia è incarnata, parola fatta uomo. M'ero offerto di morire per te. In qualsiasi momento tu me l'avessi chiesto, avrei mantenuto. Spesso sognavo che me lo chiedessi all'istante per provarti la mia dedizione, però appena potevo ti consideravo con sospetto. Non eri facile, un groviglio di contraddizioni, di scontri. Sapevi essere duro e dolce. Duro con me, ma quanto dolce con i fanciulli e con Giovanni, che era poco più che un fanciullo, oscuro e limpido. Alle genti non parlavi senza parabola, poi in privato ci spiegavi ogni cosa. Spesso le spiegazioni erano più ingarbugliate delle parabole, esibizionista e riservato. Eccitavi le folle ad ammirarti, a spasimare per te, e poi di colpo sparivi. Ti ritiravi nel deserto o fuggivi con una barca che ci avevi ordinato di tenere sempre pronta perché non t'affollasse la calca. Rispettoso della legge, insieme ribelle. Un giorno dicesti, insegnando con audacia una libertà che non tutti i tuoi seguaci nei secoli hanno conosciuto abbastanza: il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Da una parte temevi i farisei e in vari modi cercavi di tenerteli buoni, dall'altra li provocavi e insultavi. Dicevi che i comandamenti vanno rispettati, anche onora tuo padre e tua madre, come l'Eterno Dio tuo ti ha comandato, ma tu quante volte non fosti sgarbato, addirittura offensivo, con tua madre e i tuoi di casa. Questi se lo meritavano, ma tua madre? Alle nozze di Cana portasti con te solo Giovanni, che poi scrisse quel che accadde. Erano rimasti senza vino a metà del banchetto e a tua madre, che ti sollecitava a far qualcosa, rispondesti ruvido: che c'è tra me e te, donna? La mia ora non è ancora venuta. Poi il prodigio, bizzarro prodigio, lo compisti egualmente. Ma la risposta alla madre era stata dura. È un fatto che coi tuoi di casa avesti dei rapporti piuttosto scontrosi. Quasi che tra di voi avesse scarso valore il comandamento d'amarsi gli uni gli altri. Strane cose accadevano in famiglia. Per cominciare, quel brutto giorno a Nazareth, quando rischiasti di finire in fondo al burrone, i tuoi fratelli perché non erano nella sinagoga a darti manforte contro la folla ostile? Oppure c'erano e non si fecero né vedere né sentire? Non poteva darsi che pensassero che la tua morte li avrebbe liberati da parecchi fastidi? Eri il fratello inquieto, con troppe fantasie per la testa, con poca voglia di lavorare, e molti, per causa tua, biasimavano l'intera famiglia. Venne il tempo in cui il tuo successo aumentò a dismisura. Torme di indemoniati continuamente si gettavano ai tuoi piedi, gridando che eri il figlio di Dio, e tu, corrucciato, li minacciavi, non volendo che ciò venisse detto per bocca loro, tuttavia li liberavi dal male. Folle ti seguivano, non solo di Galilei, ma anche di Giudei, della stessa Gerusalemme, accorrevano, e dall'Idumea, e dall'altra parte del Giordano, e della regione di Tiro e Sidone, anche infedeli, dunque, gente che viveva alla maniera greca. E un certo giorno, in un villaggio poco lontano da Nazareth, ti trovasti come assediato in una casa, una moltitudine di fanatici che volevano vederti, toccarti, portarti via con loro, ti premevano con tanta insistenza che non potevi nemmeno mangiare. In mezzo a tanta gente c'erano anche dottori della legge venuti per rendersi conto e altre persone incaricate di riferire sulla consistenza del movimento e altre ancora che subdolamente provocavano incidenti affinché le autorità avessero pretesto di intervenire. E insomma, grande e non senza pericolo era la baraonda. E quando i tuoi ne ebbero notizia, si impressionarono. Pensarono che fosse loro dovere portarti via di lì, magari con la forza, e andavano dicendo in giro che eri matto. Non avevi la testa a posto, dicevano. E forse non erano del tutto sinceri nell'affermare ciò, ma stando fuori dalla casa e non riuscendo ad entrarvi, potevano anche pensare che la faccenda fosse più pericolosa di quanto in realtà non fosse, con quei dottori di Gerusalemme che proclamavano a gran voce che tu avevi dentro di te uno spirito immondo, che cacciavi i demoni in combutta con Belzebub, principe dei demoni, sicché c'era il rischio che le masse acclamanti diventassero di colpo, come succede, masse perseguitanti. E insomma, dirti pazzo in quella circostanza, grida di indemoniati, proteste di dottori, folla scalmanata, poteva anche apparire un modo più o meno accettabile per tirarti fuori dai guai. Ma qual era il vero animo col quale facevano ciò? C'era da fidarsi di loro? Eri già consapevole che essi sarebbero stati anche capaci di tradirti? Quel giorno, comunque, non riuscendo in alcun modo ad entrare nella casa, essi mandarono un messaggero a dirti che tua madre e i tuoi fratelli stavano fuori e ti volevano. Ma tu, girando lo sguardo su di noi, che insieme a te stavamo seduti a tavola, dicesti: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi avrà fatto la volontà di Dio, costui è mio fratello, mia sorella, mia madre. E non andasti da loro. Era un nuovo concetto, allargato, universale, di famiglia, oppure proprio non li potevi vedere? Pare che tu avessi qualche buona ragione per diffidare di loro. Giovanni racconta che tu non ti fidavi tanto di andare in giro per la Giudea perché i giudei cercavano di farti fuori. Lo sapevano tutti. Ora, la festa delle capanne, che si celebrava in Gerusalemme a ricordo delle migrazioni nel deserto, era vicina. Perciò i tuoi fratelli ti dissero: parti e vattene in Giudea affinché anche i giudei vedano le opere che tu fai. Se vuoi essere riconosciuto pubblicamente, palesati al mondo. Neppure i suoi fratelli credevano in lui, commenta Giovanni amaramente. E riferisce la risposta che desti loro, più sconsolata che irritata. Il mio tempo non è ancora venuto. Il vostro tempo, invece, è sempre pronto. Il mondo non può odiar voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa. Io a questa festa non salgo, perché il mio tempo non è ancora compiuto. Poi invece ci andasti, ma dopo aver lasciato partire i tuoi fratelli e come di nascosto. Rabbi, se inevitabile era il tradimento. Perché non ti sei servito d'uno di loro? Essi non credevano in te. Nemmeno io credevo allora, ma ti amavo. Sempre chiedendomi come mai fosse più facile amarti che crederti. Amatevi gli uni gli altri, insegnavi, ma avvertivi che per essere dei tuoi bisognava odiare e odiarsi, non avere debolezze. Vieni con me e lascia che i morti seppelliscano i morti. Rispondesti ad un discepolo che, avendo saputo che gli era morto il padre, ti chiedeva il permesso di andarlo a seppellire. La tua collera era maestosa come l'ira dell'Altissimo. Un giorno c'era un bambino epilettico e in tua assenza alcuni di noi tentarono di guarirlo. Ce ne avevi dato licenza, peraltro senza riuscirci. Quando sopraggiungesti, il padre del bambino si rivolse a te: «Rabbi, ti ho portato mio figlio che ha uno spirito muto. Ogni qualvolta si impadronisce di lui lo scuote ed egli schiuma e digrigna i denti e rimane rigido. Ho detto ai tuoi discepoli che lo cacciassero, ma non hanno potuto. Immediatamente fosti preso da furore e senza che si capisse bene se ce l'avevi con noi, che non eravamo riusciti a compiere il miracolo. Era un demonio speciale, spiegasti dopo, o con tutti gli astanti in generale, gridasti: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò?» Mi piaceva il tuo furore. Potevo immaginarlo scatenato contro gli infedeli. Il giorno che ti rendesti conto che alcuni dei villaggi nei quali avevi compiuto il maggior numero di prodigi non avevano per niente cambiato vita, ma continuavano a vivere nel peccato, come o peggio di prima, prorompesti in una clamorosa invettiva, prendendotela addirittura con Cafarnao, dove pur t'avevano accolto con benignità, dopo che te ne eri dovuto scappare da Nazareth, gridasti: «Tu, Cafarnao, quale sorte avrai? Al cielo innalzata? No, all'inferno abbassata. Se i miracoli avvenuti in te fossero stati fatti a Sodoma, oggi questa città esisterebbe ancora. Io dichiaro che nel giorno del giudizio Sodoma sarà trattata meno severamente di te». Insondabile, come i disegni di Adonai, Dio di Israele. Dicevi con lusinga: «Diventate miei discepoli, perché io non mi impongo con la violenza e nel mio cuore sono vicino agli umili». Però un giorno, quando annunciasti che saresti andato a Gerusalemme, dove avresti trovato molti patimenti e morte, e Pietro, che era non solo umile ma anche alquanto pavido, cominciò a scongiurarti di non andarci, fosti preso dalla collera. O si trattava di mascherare un'insicurezza? E gli gridasti contro: «Vattene via da me, demonio, mi sei di ostacolo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Eppure poco prima, a Cesarea di Filippo, già sulla strada per Gerusalemme, essendoti venuto in mente di provocarci col chiedere, aggressivo e subdolo e in qualche modo divertito: «Che cosa la gente dice che io sia? E voi cosa dite? Chi sono io?» Pietro di slancio era saltato fuori a rispondere per tutti: «Tu sei l'unto, il figlio vivente di Dio». E tu, contento, l'avevi subito nominato capo di tutta la comunità dei tuoi fedeli sulla terra. Per me, tuttavia, era sempre incerto se fossi davvero l'unto, il promesso, l'atteso. Con tutta la mia volontà mi sforzavo di crederlo, ma non potevo senza un segno dell'Eterno o tuo. I segni che tu davi, i prodigi, non m'erano sufficienti. E tuttavia ti amavo. molto più di quanto non ti amasse Giovanni, sconfinatamente. Nella tua incertezza e paura, come nella risolutezza e nel coraggio, nella tua mansuetudine, nella tua collera, nella tua tenace tristezza e nei brevi sorrisi, e più nei tuoi deliri di grandezza, ti amavo. Dicevi sommessamente: io sono la luce del mondo. O anche: tutto quello che ha il Padre è mio. Allora anche l'animo mio delirava in una sommità di identificazione, perché tu eri ciò in cui io non ero stato capace, e io volevo essere uno con te. Erano i momenti in cui più vivamente desideravo che tu mi chiamassi, per avere subito quella comunione di morte che era nel nostro patto. Marco Foschi ha letto La Gloria di Giuseppe Berto. Tutte le puntate sul sito e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.